148. Frittata di spinaci. Gli spinaci, tolti dall'acqua, lessateli grondanti e appena levati dal fuoco, rimetteteli nell'acqua fresca. Spremeteli bene, tritateli all'ingrosso, gettateli in padella con un pezzo di burro e conditeli con sale e pepe. Rivoltateli spesso e quando avranno tirato l'unto, versate le uova sbattute e salate alquanto. Rosolata da una parte, rivoltatela con un piatto per rimetterla in padello con un altro pezzetto di burro. Alle uova, piacendovi, potete unire un pizzico di parmigiano, grammi 200 di spinaci crudi, grammi 40 di burro, tra prima e dopo, e 4 uova mi sembra la proporzione più giusta. 149. Frittata di fagiolini in erba. Lessate i fagiolini in acqua salata e tagliateli in due o tre parti. Poi trascinateli in padella con burro e olio, condendoli con sale e pepe. Sbattete le uova con un pizzico di parmigiano e una presa di sale per versarle sui fagiolini quando li vedrete aggrinziti.